Il Presidente, nell'approvare questa misura, ha di fatto adempiuto a una sorta di promessa elettorale che era stata comunque a più riprese annunciata durante la campagna, cioè quella appunto di proteggere l'industria americana, perché l'idea era quella di schermare un po' i lavoratori, diciamo, dalla competizione internazionale, dalla globalizzazione. È interessante notare comunque che, tuttavia, il punto principale che ha ispirato, almeno ufficialmente, la misura è un certo tipo di analisi economica che individua sostanzialmente nel disavanzo di partite correnti, nel disavanzo estero, un problema per il paese che lo registra, e ricordiamo che gli Stati Uniti sono fra i paesi che hanno un disavanzo estero più ampio, nel senso che importano molto più di quello che esportano, e per questa ragione appunto il Presidente a più riprese ha dichiarato il fatto che questa situazione avrebbe comportato una situazione di indebitamento perpetuo degli Stati Uniti nei confronti di altri player internazionali, non soltanto la Cina ma anche e potremmo dire soprattutto l'Europa. Dal punto di vista economico la misura sicuramente da un certo punto di vista protegge quella che è l'industria dell'acciaio americana e una parte del comparto produttivo. D'altro canto però comporterà un aumento dei costi per i prodotti importati sicuramente degli stessi settori, e per tale ragione comunque conduce a un peggioramento dei termini reali di scambio del paese, ovvero se è vero che in termini monetari importare più di quello che si esporta significa pagare all'estero più di quanto si riceve, d'altro canto la situazione è in termini reali o esattamente opposta, cioè se si importa più di quello che esporta, ciò significa che all'interno del paese entrano più merci di quelle che escono dal paese stesso, e quindi il costo reale del commercio internazionale è inferiore, cioè è necessario mandare meno beni all'estero per poterne ricevere tutti quelli che effettivamente si ricevono. Molti paesi, spesso quelli emergenti, hanno difficoltà ad importare proprio perché le loro valute sono spesso o non trattate sui mercati internazionali o molto debole rispetto alle valute forti. Sicuramente però questo non è il caso degli Stati Uniti che, come anche in letteratura si afferma da molti decenni, si gode di una sorta di privilegio internazionale, nel senso che tutto il mondo di fatto utilizza dollari come valuta di riserva, e perciò diciamo se c'è un paese che non ha alcuna difficoltà poi a poter importare merci su base continuativa, questo paese sono proprio gli Stati Uniti. Per cui se da un lato diciamo questa misura di Trump era più dettata da una necessità politica di soddisfare una promessa elettorale precedentemente fatta nei confronti degli elettori, sul piano economico senz'altro non aiuterà a sostenere la crescita americana. Poco tempo fa appunto Trump ha approvato un pacchetto che abbiamo commentato relativo a una riforma fiscale che crea molto disavanzo e che quindi tutti gli analisti più o meno stanno commentando come una misura espansiva che almeno in termini nominali avrà un effetto positivo sul PIL. Questa misura sicuramente renderà più costosa diciamo la fornitura di questi beni provenienti dall'estero per gli Stati Uniti, e potrebbe al massimo causare un aumento dei costi e anche potenzialmente dei prezzi praticati all'interno del paese, senza che però vi sia un bisogno economico effettivo di realizzare questa misura per aumentare l'occupazione o per proteggere l'occupazione. Nel caso specifico, se si vuole proteggere dei settori strategici per l'industria nazionale, sarebbe stato possibile ad esempio realizzare degli investimenti mirati invece di porre dei dazi, diciamo, come si è fatto. Quindi da un certo punto di vista la misura potrebbe anzi andare in una direzione opposta rispetto alla previsione di crescita positiva in seguito alla riforma fiscale. Sappiamo che non tutti negli Stati Uniti erano d'accordo, si è dimesso il consigliere economico appunto di Trump. Questa misura può essere considerata un atto di guerra commerciale, viste anche le prime reazioni e visto che non è la prima misura del genere, e avrà ripercussioni sulle economie anche in modo particolare su quelle europee? Questa è una forte preoccupazione che è stata espressa anche ieri in occasione della conferenza stampa di Mario Draghi. Proprio la maggior parte delle domande seguite alla dichiarazione iniziale hanno proprio evidenziato come di fatto l'area economica che può rischiare di perdere di più da questa serie di misure è proprio l'Europa, perché mentre la Cina diciamo ha una forte esposizione in termini di esportazioni nette ma può contare sulla possibilità di esportare in diversi mercati, l'Europa che in questa fase deve maggior parte della sua crescita proprio alle esportazioni nette verso gli Stati Uniti potrebbe risentirne molto, e questo invertirebbe una tendenza che invece si era registrata nel 2017, una tendenza che aveva portato il commercio globale a tornare a crescere in un certo senso dopo la fase di arresto seguita alla crisi. Questa serie di misure potrebbe invece invertire questa tendenza e danneggiare proprio le aree economiche che, come quelle europee in questo momento, stanno basando tutto il loro modello economico, gran parte di esso, sull'esportazione nei confronti degli Stati Uniti. Prima parlavamo della riforma fiscale in un'ottica di allargare anche la competitività, quindi allargare anche, come dire, alla globalizzazione, e invece una misura protezionistica. Trump sembra non seguire una dottrina specifica dal punto di vista economico. La dottrina di Trump, diciamo, è un po' una sorta di puzzle, nel senso che si compone di alcuni elementi fortemente ispirati a politiche supply side in stile reaganiano. Anche, diciamo, la sua misura della riforma fiscale di cui si è parlato sostanzialmente coincide con una misura trickle down di abbassamento delle imposte per le imprese e per le classi sociali più ricche, con la speranza che in questo modo, diciamo, si realizzino quegli investimenti che nella percezione popolare erano bloccati proprio dalla presenza di un carico fiscale troppo gravoso. Al contempo, diciamo, a questo si accompagna un piano di investimenti militari molto forte, e sono entrambe caratteristiche che sono state realizzate anche proprio da Ronald Reagan negli anni Ottanta. Tanto è vero che, a dispetto, diciamo, dell'appartenenza repubblicana, sia Reagan, così come anche George Bush anni dopo, hanno comunque basato la propria politica economica sulla realizzazione di ampi disavanzi pubblici, naturalmente non realizzati allo scopo di aumentare la spesa sociale, la spesa per investimenti pubblici civili, ma anzi appunto per tagliare le tasse, per realizzare investimenti pubblici orientati alla difesa. In campo commerciale però la dottrina Trump sembra ispirarsi, diciamo, al protezionismo, che invece cozza un po' con l'impostazione reaganiana, a un protezionismo che potrebbe quasi ricordare degli afflati no global, ma che in realtà dal mio punto di vista dovrebbe essere interpretato più come una difesa quasi corporativa dei grandi complessi industriali americani, che in parte hanno anche sostenuto pesantemente la sua campagna. Per cui si tratta proprio di una impostazione da nuova destra, da alt-right potremmo dire, che cerca di realizzare alcune misure in favore dell'imprenditoria interna, un po' come il centrodestra propone la flat tax in Italia sostanzialmente. Al contempo però cerca di proteggere l'industria nazionale da una competizione globale che vede come distruttiva non tanto, ed è poi questo il punto fondamentale, per i lavoratori, quanto per il fatto che l'industria nazionale possa vedersi minacciata da altri player nazionali più importanti.